non parlare male del prossimo, e prima che parlare ovviamente non pensare male del prossimo, è indice di grande consapevolezza e di umana pietà. La carne è debole, lo spirito non ne parliamo nemmeno, la tentazione di prendere la scorciatoia piuttosto della via più lunga e faticosa di solito l'ha vinta su chiunque in 4 e 4-8. Chi sa di sé, della propria viltà in certi frangenti, dell'immediatezza di un silenzio o di un'omissione, sa che non c'è affatto bisogno che il gallo canti tre volte, e dunque, commisurando gli alti alla propria statura, è ben disposto a stendere un velo pietoso su chiunque, classificando ciascuna azione altrui con un sereno beneficio d'inventario. In una mano il Vangelo e nell'altra il libro della norma di Lao Tse, no? A chi non denuncia la pagliuzza nell'occhio altrui non dovrebbe venire rimproverata la trave che è conficcata nel suo, e a chi, non esprimendo giudizi negativi, dimostra di non aver conteso con gli altri, tocca poi tutto l'utile di non incorrere in alcun danno. Accreditare un morto di questa capacità, di un'assunzione di responsabilità dei propri errori tale da non poterne più addebitare a nessuno, parrebbe l'espressione della massima stima e del relativo senso di devozione che ancora sentiamo di dovergli. Parrebbe. Parlar male, e prima di parlar male ovviamente pensar male di qualcuno, è invece doverosamente necessario. Casa nostra, le strade, la gente oppressa e la gente che l'oppressa, la cultura che produciamo, la nostra storia, questo nostro mondo, insomma, proprio tutto giusto, tutto accogliente, tutto sensato, tutto umano per tutti gli umani, proprio non è. Porzioni sempre più abbondanti della nostra vita ci fanno orrore. La difficoltà di parlarci, la mancanza di lealtà alla quale veniamo educati da subito, i gas delle automobili, il cibo che fa schifo, le frottole sulla nostra storia e sulla nostra scienza, i fondamentalismi religiosi, la loro insulsa autorità, la voracità dei potentati e delle loro controfigure al governo, la benedizione ecumenica dei mezzi di sterminio della nostra specie sul pianeta. Tutto questo e parecchio altro ancora ci fa orrore, e qualcuno di questo orrore sarà pur responsabile. Dirmi che ne siamo responsabili tutti indistintamente non mi sta bene. Non mi sta bene perché nella mia vita, e non credo sia capitato solo a me, ho più volte dovuto constatare che, di fronte a certe scelte, chi poteva scegliere ha scelto la migliore per sé, facendo finta di non sapere che al contempo quella scelta era la peggiore per gli altri. Col tempo e con l'esperienza i criteri per scegliere il sano dal porcume me li sono costruiti. È in grazia di ciò che posso dire che, sul mercato odierno il porcume è molto più del sano, ed è in grazia di ciò che un minimo di genealogia di questo porcume sono ancora in grado di farla, con nomi e cognomi. So con discreta certezza che quel libro sostiene tesi vergognosamente false nell'interesse minimo del suo autore e nell'interesse massimo di chi lo sostiene nel mercato ideologico. So che il tale nel dibattito televisivo sta mentendo. So che il tal'altro nel processo in corso sta dicendo un mucchio di balle cui non crederebbe un bambino, ma qualche magistrato invece sì. So che quel titolo sul giornale dice esattamente il contrario di quel che c'è scritto nell'articolo, e so che quell'altro articolo è stato scritto soltanto nell'interesse di uno che non ne è affatto l'autore. So perfino che in quel tal libro è stata cancellata una frase per ordine di qualcuno. So che in un altro il nome di un tizio è stato sostituito dal nome di un altro. So anche di casi in cui si è trattato del nome dell'autore. So che In un altro ancora due fatti del tutto estranei l'uno all'altro sono stati giustapposti in modo che il lettore inavvertitamente ponga fra loro un rapporto di causa e di effetto. Di questi scempi che non contribuiscono certo a migliorare la qualità della nostra vita associata, so nome e cognome degli autori. Per essere onorato da morto dovrei tacerli? Non mi è mai passato per l'anticamera del cervello. Chi ha criteri per dirimere lo faccia, assumendosene coraggiosamente la responsabilità. L'unanimità è un segnale inequivocabile di agghiacciante rassegnazione. Accreditare un morto della virtù di non aver mai parlato male di nessuno equivale ad addebitargli o un'intrinseca inettitudine o un'irrimediabile viltà. L'amico e collega così commemorante ha dunque ritenuto di essersela cavata brillantemente con questa confidenza finale al pubblico partecipe e prontissimo a battergli le mani. Non ha capito di essersi messo da solo in un piccolo guaio, perché dimentico della strenua passione politica che invece aveva da sempre caratterizzato la vita di chi commemorava. Dimentico del fatto che costui era ben dotato di strumenti critici affilatissimi, nonché della volontà di applicarli, non ha pensato che forse, non parlandogli male di nessuno, manifestava implicitamente il proprio giudizio sulla sua persona. E infatti, con il morto, quando era in vita, è ancora il caso di specificarlo, con il morto ne abbiamo parlato più volte, di lui, Maluccio.